E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sulle pagine del Riformista, Enrico Beltramini traccia un bilancio dei primi 18 mesi dell'amministrazione Obama, tra successi, sconfitte e l'avanzata del cosiddetto Tea Party. È passato un anno e mezzo dall'inaugurazione dell'amministrazione Obama. Un anno e mezzo che il primo presidente afroamericano ha vissuto pericolosamente. Ha rischiato l'aborto della legislazione di riforma sulla sanità, l'inconsistenza della riforma sul mercato finanziario e ancora l'impraticità di alcune promesse elettorali, come la chiusura del supercarcere di Guantanamo, la lotta alla recessione e alla disoccupazione, il rilancio dell'immagine e della moral suasion americana in Europa. Ha sofferto la sua Katrina, la perdita di petrolio di BP nel Golfo del Messico. Non ha ancora trovato il modo di sintonizzarsi con la gerarchia cattolica a causa della sua propensione alla difesa dei diritti della donna sui temi della vita. E la via per lasciare il Medio Oriente senza perdere la faccia è senza che appaia una sconfitta. I rapporti con la Cina sono ambivalenti, a volte coronati da successi, come il recente accordo sull'apprezzamento della moneta asiatica, a volte meno. Il rapporto con Israele è immutabile, ma intanto è diminuita la capacità di esercitare influenza sul suo governo. Il presidente ha perso presto il favore di più di una metà dell'opinione pubblica, almeno a stare ai sondaggi, già nel suo primo anno di mandato. L'opposizione repubblicana ha affiliato una nuova espressione politica, il Tea Party, che poi non è un vero partito, ma un movimento organizzato di marca conservatore che oscilla tra l'esercizio di una pressione dall'esterno sul partito repubblicano e un'occupazione manu militari del partito stesso. Il Tea Party è tante cose. Una rivolta contro il moderatismo repubblicano e il rilancio del programma conservatore originario, Goldwater e Reagan. Una manifestazione di vita della destra religiosa, che è emersa due decenni fa e che durante l'amministrazione Bush ha raggiunto l'apice dell'influenza politica, arrivando a ridiscutere un caposaldo della Costituzione americana, il rapporto, la separazione, tra Stato e Chiesa. Ma soprattutto il Tea Party è un'eruzione spontanea di protesta contro l'elezione di Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Obama come politico liberal, del Midwest, pro-governo, espressione delle minoranze. Il giudizio sul presidente è misto. La sua amministrazione non ha mostrato i segni taumaturgici che la miracolosa campagna elettorale del 2008 aveva lasciato sperare. E allo stesso tempo è sopravvissuta al disincanto della perdita di tale speranza. Il presidente ha mostrato una certa autodisciplina, scegliendo fin dall'inizio la soluzione della crisi interna come obiettivo prioritario e lo scenario internazionale come secondario e non cambiando idea successivamente. Ha lasciato intravedere una certa indeterminatezza nell'affrontare gli imprevisti e una maggiore propensione a lavorare su un'agenda preparata e raggiungere obiettivi pianificati. Non ha cambiato le persone chiave del suo governo, ha avuto qualche problema con i militari, non è stato sfiorato dagli scandali, non è stato coinvolto in nessuna crisi internazionale, non ha aperto nuove aree di crisi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Beltramini, Un anno e mezzo di Obama produce un Tea Party, dal Riformista del 13 luglio. Nel corso dei secoli, l'organismo dei tibetani ha subito numerosi mutamenti per resistere all'altitudine e per adattarsi alle condizioni estreme, riuscendo anche a rallentare l'invecchiamento, come rivela uno studio realizzato dall'Università di Berkeley. Vivere in alta quota allunga e migliora la vita. Ad assicurare longevità e vecchiaia più attiva non sono solo aria pulita, cibi sani, movimento quotidiano e ritmi meno stressanti. Un gruppo di ricercatori americani ha certificato che i popoli di montagna sono geneticamente diversi dagli altri. Il loro organismo, nel corso dei secoli, ha subito un mutamento biologico capace di garantire la sopravvivenza della specie anche in condizioni estreme. Secondo gli scienziati californiani, I popoli delle vette sono protagonisti della più rapida mutazione genetica mai accertata. E questo cambiamento è direttamente connesso al modo con cui l'organismo utilizza l'ossigeno. La razza selezionata sul tetto del mondo, dove si concentrano tutti gli 8.000 del pianeta, ha avuto origine in Asia 2.800 anni fa, quando tibetani e Yan si sono separati. Clima e isolamento hanno evitato contaminazione di sangue, consegnandoci il popolo che può oggi condurre oltre il mistero della consunzione fisica. I tibetani, come altre genti degli altipiani andini, non vengono colpiti dal cosiddetto mal di montagna. La carenza cronica di ossigeno non causa in loro edemi polmonari o cerebrali, nemici anche degli alpinisti più allenati. Probabilmente cardiaci e depressione, affaticamento rapido, neonati sottopeso e alta mortalità infantile non colpiscono come dovrebbero chi da sempre vive tra i 3.700 e i 5.200 metri di quota. Fra i 30 geni della vita rafforzata, uno in particolare è mutato fino a disegnare il profilo di un superuomo. Si chiama EPAS1 ed è noto come il gene dell'atleta. Le due varianti principali favoriscono le prestazioni sotto sforzo e codificano la proteina che, grazie alla capacità di regolare i livelli di ossigeno nel sangue, bilancia il metabolismo aerobico e anaerobico. Che la selezione naturale dell'altitudine avesse fissato delle varianti umane vantaggiose non è una novità. Gli sportivi ricorrono da anni alla preparazione in quota per aumentare globuli rossi, emoglobina, eritropoietina ed ematocrito, così da migliorare le prestazioni agonistiche. Lo studio di Berkeley si spinge più in là, individuando per la prima volta i geni che trasformano l'ipossia nel motore di una serie di adattamenti cellulari che, oltre alla resistenza atletica, migliorano la salute e rallentano l'invecchiamento. Non potremo andare tutti a vivere in Tibet. Scienza e medicina si apprestano però a portare l'Everest verso valle, affinché chiunque possa mutare un essere dell'Himalaya. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giampaolo Visetti, Vivere bene a quota 5.000, svelato il segreto dei tibetani, da Repubblica, del 13 luglio. La scienza lo chiama fenomeno switch, ma è noto anche come terzo uomo. È quello che avviene quando qualcuno si trova in condizioni di estremo pericolo e riesce miracolosamente a sopravvivere grazie ad una voce misteriosa che lo guida verso la salvezza. Il caso più impressionante è quello di Ron Di Francesco, che l'11 settembre 2001 aveva un ufficio a New York all'84esimo piano della Torre Sud. Quando alle 8.46 il primo dei due aerei che sbricioleranno il World Trade Center si abbatte sulla Torre Nord, anche gli altoparlanti del grattacielo gemello invitano tutti a portarsi verso il tetto. È più sicuro. Ron esegue automaticamente e quando alle 9.03 il volo 175 della United Airlines chiude la propria traiettoria tra il 77esimo e l'85esimo piano del suo edificio, lui viene sollevato come un ramo secco e scaraventato contro un muro. Si rialza, è sconvolto. Sono salito fino al 91esimo, poi la paura mi ha assalito. Era buio, c'era fumo, sono sceso e arrivato al 79esimo. Mi sono seduto. Non riuscivo a respirare, molti attorno a me erano svenuti. Sembrava finita, ma esattamente in quel momento capita quello che lui oggi chiama il fatto. Ho sentito una voce, e non era nessuno del gruppo. Mi diceva, vai verso le scale di emergenza, fatti coraggio. Era una presenza fisica, mi ha quasi preso per mano. Sono passato in mezzo alle fiamme coprendomi la faccia. Ho trovato l'uscita e girando la testa ho visto una palla di fuoco che mi stava inseguendo. Mi sono risvegliato all'ospedale. Ron Di Francesco è stato l'ultimo uomo ad uscire vivo dalla Torre Sud. Chi l'ha salvato? Sulle presenze che orientano il cammino di uomini e donne con un piede nell'aldilà, John Geiger ci ha scritto un libro e lo ha intitolato Il fattore terzo uomo. Storie vere di sopravvissuti in condizioni estreme. In Inghilterra è andato a ruba e sta riempiendo gli zaini di chi parte per le vacanze. Un viaggio dentro un'altra dimensione che all'improvviso si fa terrena e non si capisce se è uno scherzo della mente o un regalo del cielo. Frank Smythe, ad esempio, era un temerario inglese che voleva raggiungere per primo la cima dell'Everest senza l'ausilio dell'ossigeno. Rischiò di rimanerci secco. «Fui salvato dal terzo uomo», scriverà nelle sue memorie. Il primo giugno del 1933 si trovò a 1.000 piedi dalla vetta, poche centinaia di metri, in quella che viene chiamata la zona della morte. Ero debole come un gattino, Quei 1000 piedi mi sembravano 1000 miglia. Pensai, dunque è così che si muore. In preda alla disperazione, Smythe sente attorno a sé una presenza. È così forte che ha l'istinto di mettere una mano nella borsa, prendere una tavoletta di cioccolata e di spezzarla in due. Volevo condividerla col mio nuovo compagno. La sua presenza era incombente. Mi riportò al campo base, vivo. La cima dell'Everest fu raggiunta per la prima volta senza ossigeno solo nel 1978 da Reinhold Messner. Nel libro, Geiger racconta poi, parallelamente, l'esperienza drammatica della geomicrobiologa Stephanie Schwab e quella scientifica di un gruppo di ricercatori svizzeri. La Schwab, nel 1997, cercò di raggiungere una grotta marina alle Bahamas. Si accorse di aver perso la rotta e si ritrova bloccata all'interno di un labirinto. Mi misi a pregare mio marito, che era morto da pochi anni. Vidi una luce fortissima. La seguii e solo quando arrivai all'uscita, la presenza mi lasciò. Esperienza metafisica? Gli scienziati svizzeri 3 anni fa hanno cercato di evocare queste incomprensibili presenze attraverso la stimolazione elettrica della parte sinistra del cervello di una ragazza epilettica di 22 anni e si sono accorti che ad ogni impulso, chiamato switch, la giovane girava la testa convinta che ci fosse qualcuno al suo fianco. Lo stress fisico e l'esaurimento della resistenza possono produrre lo switch, giurano, e a loro sembra una spiegazione sufficiente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Malaguti, SOS, c'è un angelo per i momenti disperati, dalla stampa dell'11 luglio.